Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 674. Una puntata con delle belle novità discografiche, molte questa volta in relazione alla media dei miei programmi che arrivano dall'estero, ma ci sono anche delle novità italiane. Iniziamo subito con un CD che mi arriva dagli Stati Uniti di Jeff Danson con il suo trio, che insieme al grande e mitico Lee Konitz hanno realizzato un bel CD che porta il titolo semplicemente del gruppo Jeff Danson Trio più Lee Konitz. Il gruppo infatti è formato da Jeff Danson, che canta e suona il contrabbasso, Lee Konitz al sax alto e anche lui con degli interventi vocali, Dan Zimmerman al pianoforte e John Arkin alla batteria. Stasera noi da questo bel CD ci potremo ascoltare Subconscious Lee, una composizione originale di Lee Konitz. Buon ascolto quindi con Jeff Danson Trio più Lee Konitz. Thank you. Ebbene, questa era una composizione originale di Lee Konitz intitolata Subconsciously, tratta dal CD Jeff Danson Trio più Lee Konitz, una composizione che mette in evidenza la grande classe, la grande esperienza di Lee Konitz, sempre nel solco della grande tradizione, con un Jeff Danson Trio complice di questa composizione che vive con entusiasmo, con passione l'accompagnamento di questa composizione, una complicità che viene vissuta in tutto il CD, dal primo all'ultimo pezzo, con momenti di grande gioia ed entusiasmo. Si sente che il gruppo ha vissuto con Lee Konitz veramente il piacere di suonare insieme, di creare insieme momenti di buona musica. Lasciamo Jeff Danson Trio e Lee Konitz per andare ad ascoltare un ottimo chitarrista. Si tratta di Dusan Jevtovic, che abbiamo già avuto il piacere di promuovere nei nostri programmi con altri progetti discografici. Questa volta lo promuoviamo insieme a Xavi Reija alla batteria per il CD Random Abstract, pubblicato dalla Munjun Records. Si tratta di un disco particolare, interessante, dove Jevtovic mette in gioco la sua particolare visione della musica, piuttosto tesa alla ricerca, alla sperimentazione, con un ambiente generico così di jazz rock, però vissuto con molta originalità. Il pezzo che ci andremo ad ascoltare è una delle composizioni che mi ha colpito maggiormente e si chiama The Cajun Sky. Buon ascolto quindi con Dusan Jevtovic alla chitarra e Xavi Reija alla batteria dal CD Random Abstract. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati l'ottimo chitarrista Dusan Yevdovich insieme al batterista Xavi Reija, un duo veramente straordinario, forte nell'esposizione delle frasi, sicuramente con una sonorità compiuta, come se fosse una band molto più ricca. Il chitarrista Dusan Yevdovich ci sorprende ogni volta per la sua capacità di improvvisazione, per la sua fantasia, per la sua ricchezza di fraseggi, una tensione musicale sempre presente dal primo all'ultimo momento che riesce a coinvolgere l'ascoltatore. Gran belle composizioni in questo CD Random Abstract, che riconferma ancora una volta la validità di questo ottimo chitarrista Dusan Yevtovich, dal CD Random Abstract pubblicato dalla Munjun Records. E adesso andiamo avanti con un gruppo italiano. Come vi ho detto, oggi ci sono soltanto un paio di presenze nella programmazione di oggi. Una di queste interessante, si presentano per la prima volta in Anima Jazz, Lawyer Quartet, formato da Giovanni Perin, da Giulio Scaramella, Marco Trabucco e Max Trabucco. Si tratta di validi musicisti che hanno realizzato un progetto interessante che porta il nome del gruppo e che è stato pubblicato dalla A Beat for Jazz, che noi seguiamo da tantissimi anni con le sue interessanti pubblicazioni, a volte di nomi risonanti, a volte di giovani emergenti che meritano veramente la migliore attenzione, e sicuramente confermano quanto la politica delle Beat sia sempre rivolta alla qualità, indipendentemente dal nome più o meno sotto i riflettori. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio gli strumenti dei musicisti. Giovanni Perin è al vibrafono, Giulio Scaramella al pianoforte, Marco Trabucco al contrabbasso e Max Trabucco alla batteria. Ci sono anche due ospiti in questo progetto discografico, che sono Mirko Cisilino alla tromba e Tommaso Troncon al sax tenore. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è quello che chiude l'album, intitolato Lost in a Violet Sky, una composizione originale del vibrafonista Giovanni Perin. Buon ascolto quindi con Lawyer Quartet. Thank you. Bene, questo era Lawyer Quartet, formato da Giovanni Perin al vibrafono, Giulio Scaramella al pianoforte, Marco Trabucco al contrabbasso, Max Trabucco alla batteria. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione originale di Giovanni Perin intitolato Lost in a Violet Sky. In questo pezzo avevamo anche gli ospiti Mirko Cisilino alla tromba e Tommaso Troncon al sax tenore, un pezzo che ha messo in evidenza la bella liricità, la bella poesia, l'equilibrio, un pezzo sicuramente con un'armonia che ci riporta al pensiero che esiste un jazz italiano, un jazz che ha una sua connotazione, un jazz capace di essere, come dire, di ascolto ampio ed internazionale, ma con delle caratteristiche che ci appartengono, che almeno noi riconosciamo come nostre, un'appartenenza che è culturale, che affonda le radici nel nostro background musicale, nostro background culturale, che è fatto non solo della grande storia della musica lirica, della musica classica, ma anche della musica popolare, della musica popolare intesa non solo come folk, ma anche intesa come musica che in qualche modo ha accompagnato i nostri anni, dalla musica cantautoriale alla musica comunque gradevole che ha fatto grande l'Italia nel campo della musica a tutto tondo. I musicisti molto preparati che abbiamo nelle ultime generazioni hanno anche questo background e si portano dietro questo che potrebbe sembrare un fardello, ma è sicuramente invece una preziosissima risorsa, non tanto dalla quale attingere, ma una risorsa che è nel nostro DNA e che quindi ci portiamo dentro e che esce fuori ad ogni buona occasione, in questo caso di questi giovani del Lawyer Quartet che hanno offerto veramente pagine di musica di ricchezza notevole. Il CD, lo ricordo ancora una volta, è stato pubblicato dalla A Beat for Jazz. Adesso, dopo Lawyer Quartet, ritorniamo all'estero e ci torniamo con Tim Garland, interessante sassofonista che si presenta in Anima Jazz con questa nuova pubblicazione intitolata Return to the Fire. E la formazione vede Tim Garland al sax tenore, ma in questo CD suona anche il sax soprano e il clarinetto basso, Gerard Presencer alla tromba e flicorno, Jason Rebello al pianoforte e Fender Rhodes, Jeremy Stacy alla batteria e Tom Farmer al contrabbasso. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è quello che dà anche il titolo al CD, Return to the Fire. Buon ascolto quindi con il gruppo di Tim Garland. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati la musica di Tim Garland, questo sassofonista che insieme a Gerard Presencer alla tromba e flicorno, Jason Rebello al pianoforte, Jeremy Stacey alla batteria e Tom Farmer al contrabbasso, ha realizzato questo CD intitolato Return to the Fire, dal quale noi ci siamo ascoltati la composizione originale, appunto, che dà il nome al CD, Return to the Fire. Una tensione che fin dal all'inizio tiene costantemente, fortemente attenti all'ascolto e che rapisce per le belle performance personali di talento dei musicisti, non solo del leader del gruppo. Veramente un bel disco che cattura l'attenzione. Dopo Tim Garland è il momento di Laura Coyle, una cantante che io ho promosso già da molti anni, quando avevo ancora il programma Voice Soul, un programma di cantanti di voci jazz internazionali, e che poi ho mantenuto come contatto negli anni, e ritorna in questo caso in Anima Jazz con questo nuovo CD intitolato If Poets Sing. Laura Coyle insieme alla sua band stasera ci farà ascoltare Gravy Waltz. Buon ascolto con Laura Coyle. Kitchen, this glorious day. Smell the gravy simmering nearly half a mile away. Lady Morning Glory, I said good morning to you. Chirpy little chickadee told me that my baby was true. Well, she really ran to get her frying pan when she saw me coming. Get a taste before it goes to waste. This honeybee's humming, Mr. Weeping Willow, I'm through with all of my faults. 'Cause Mama's ready to do the new gravy waltz. Mama's in the kitchen and it's a glorious day. Kitty told me that my baby was true. Well, she really ran to get her frying pan when she saw me coming. I gotta get a taste before it goes to waste. This honeybee's humming, Mr. Weeping Willow, I'm through with all of my faults. 'Cause Mama's ready to do the new gravy waltz. Gravy waltz, 'cause Bene, questa era la voce di Laura Coyle, una professionista che ha già una carriera alle spalle piuttosto interessante e importante, di grande esperienza, e che riesce sempre a vivere i fraseggi con una capacità professionale di grande rilievo. Il CD in questione, appena uscito, è intitolato If Poets Sing, dal quale noi ci siamo ascoltati Grevy Waltz. Laura Coyle in questo CD accompagnata dal suo quartet. Bene, lasciamo la morbidezza canora di Laura Coyle ed andiamo avanti con il sassofonista Kyle Nasser. Un sassofonista che alla sua prima pubblicazione discografica, quindi l'album di debutto, un album interessante, sicuramente già maturo, che vede Kyle Nasser al sax, Jeff Miles alla chitarra, Dov Mansky al pianoforte, Chris Van Vorst al contrabbasso e Devin Drubka alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo stasera da questo CD intitolato Restive Soul è proprio quello che dà il titolo al CD. Restive Soul, buon ascolto con Kyle Nasser e il suo quintetto. Thank you. Questa era la musica di Kyle Nasser. Kyle Nasser è un sassofonista che al suo debutto discografico, il CD si intitola Restive Soul, la formazione vede Kyle Nasser al sax, Jeff Miles alla chitarra, Dov Mansky al pianoforte, Chris Van Voorst al basso e Devin Drupka alla batteria. Si tratta di un quintetto veramente molto valido, non solo il leader, il sassofonista molto interessante, caldo nei suoi assoli e sicuramente attento anche come compositore a creare delle composizioni appunto piuttosto valide, interessanti, imprevedibili, con una certa complessità e sicuramente con una vivacità di sonorità piuttosto stimolanti. Tutto il gruppo ha delle personalità molto valide e capaci di esprimere talento in ogni performance solistica, quindi è godibile come gruppo nel suo insieme, con delle belle complicità d'ensemble, ma anche con delle bellissime performance solistiche ricche di fraseggi creativi e molto stimolanti. Bene, dopo la musica di Kyle Nasser è il momento di ritornare in Italia con il cantautore Andrea Grossi, che io ho già avuto il piacere di promuovere nei nostri programmi e anche di promuovere nel Festival delle Voci Jazz Italiane. Ritorna nei nostri programmi con questa nuova pubblicazione intitolata Concreto Astratto, un bel CD ricco di composizioni interessanti, poetiche, con anche una certa ironia, con dei testi che arrivano anche all'essenza del graffiante per la sua analisi sociale, per la sua, in qualche modo, tra virgolette, denuncia dello status della nostra quotidianità, di certe cose che viviamo quotidianamente, a volte senza accorgercene, purtroppo facendo ormai abitudine a tutto, a volte invece magari ancora sorprendendoci. Bene, lui riesce a riportarci a questa realtà, a farcela vedere anche con un taglio particolare. Belle anche le partiture musicali, sicuramente arrangiamenti che impreziosiscono i testi, ed è anche molto ricca la presenza di musicisti in questo progetto discografico. Andiamo a vedere i nomi dei musicisti che compaiono in questo disco. Andrea Grossi chiaramente alla voce, poi abbiamo Livio Camorani al pianoforte, Gabriele Zanchini alla fisarmonica, Giancarlo Bianchetti alla chitarra acustica e classica, Mauro Mussoni al contrabbasso, contrabbasso, Marco Frattini alla batteria, Guglielmo Pagnozzi al clarinetto e sax contralto, Maurizio Piancastelli alla tromba e arrangiamento fiati, e Fabio Cimatti al sax soprano e sax tenore e Gianluca Fortini al clarinetto basso. Ci sono anche degli ospiti che sono presenti soltanto in un paio di canzoni, Antonio Gramentieri chitarra elettrica e poi Marco Zanotti alle percussioni, poi ci sono anche i cori, quindi una pubblicazione discografica con una partecipazione musicale veramente di ottimi professionisti e di grande respiro. Stasera ci potremmo ascoltare il pezzo che apre l'album intitolato AAA Animalista. Buon ascolto con Andrea Grossi. Cane col cappottino, era elegante, così carino. La sua padrona, quel guinzaglio, lei lo stringeva con orgoglio, ma si abbaiava per un fatto strano. Dopo le urla in italiano, se non voleva sentir ragione, parlava la lingua del bastone, che l'animale deve imparare come ci si deve comportare e ad ubbidire al suo padrone, scordando l'istinto per la ragione. E da perfetto animalista io ti vorrei su quella lista come mio migliore amico, per chiamarti sempre fido. Ti porterei in giro al guinzaglio, la museruola come un bavaglio, a fare il tuo bisognino davanti casa del vicino. E non c'è dubbio che poi raccolgo, mi fa schifo quello sporco, la lascio lì come ricordo per la fortuna di qualcun altro. Ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista, ah. C'è quella che lo tiene in borsa, non riesce proprio a farne senza, anche quando è al ristorante, tanto è ben chiusa e non fa niente. Quanto vorrei farti provare, chiusa in un sacco un paio d'ore, mentre con calma finisco il pranzo e mi preparo alla digestione. A te che ami tanto gli animali e nei seppelliti di maiali, ma ci tieni a fare distinzione a come riempi il tuo boccone. Ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista. Chi lo lascia pane d'acqua, sempre rinchiuso in una gabbia, nella zona industriale a far la guardia al capannone. E mi hanno detto che si può fare, che ti potrei anche castrare. Non mi guardare così male, la vita non è solo far l'amore. Se in TV è così carino che lo vorrebbe anche il tuo bambino, sarà un bel regalo di Natale da lasciare sulla strada per il mare. Ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista. Ladies, ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista, ah ah ah, animalista. Questa era la musica di Andrea Grossi, cantautore che, come avete sentito, arrangia anche molto in jazz alcuni dei suoi pezzi e che quindi ha sempre il suo posto nelle mie trasmissioni, in questo caso non solo in Anima Jazz, ma Andrea Grossi sarà anche selezionato per il prossimo Dubidubidù 2015, undicesimo festival delle voci jazz italiane. Un cantautore sempre con grande ironia, con una simpatia particolare, riesce a vivere dire, la poesia pura, come ho avuto il piacere di dirgli personalmente, ma anche con questo senso graffiante dell'analisi delle nostre fragilità, delle nostre pochezze quotidiane che lui osserva da attento e sensibile cantautore, da sensibile artista che riesce a vedere certe cose del nostro comportamento. Un bel disco, come dicevo prima, che si alterna tra pezzi decisamente più spostati nell'ambiente del jazz, altri meno, più sul cantautoriale, ma che sicuramente riesce a far vivere dei momenti di buona musica in ogni occasione e quindi godibile sotto ogni aspetto. Con questo pezzo di Andrea Grossi, AAA Animalista, tratto dal CD Concreto Astratto, si conclude anche la puntata numero 674 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci da Anima Jazz.